Quarta ed ultima parte di Rock Legends, stiamo sempre ascoltando i brani del disco A Million Year Picnic dei Temponauts. Come si chiamava questa canzone, Andrea? Ma questa canzone era She's an Animal. Dopo l'uscita di questo strabiliante disco, quali gli obiettivi futuri dei Temponauts? Beh, strabiliante è una parola grossa. Niente, noi stiamo lavorando perché abbiamo qualche live in progetto e comunque siamo sempre al lavoro sulle nuove idee o comunque su vecchie idee che abbiamo messo nel cassetto perché forse non era il momento di svilupparle. E piano piano stiamo sistemando alcuni brani e forse anche con un paio di cover. Il nostro obiettivo sarebbe andare in studio quest'autunno e vedere un po' cosa si può fare. Quindi una nuova release magari. Ma se riusciamo a fare un album o magari facciamo un 45, un EP, qualcosa. Comunque abbiamo bisogno periodicamente di infilarci dentro in studio, altrimenti qua si rischia di cazzeggiare. Quale brano vuoi farci ascoltare adesso? Ma sono un po' indeciso, però farei Fuck You Everyone. The floor, shine is out of the way, CDC. La puntata si sta per chiudere, vi ricordo i contatti per richiedere le vostre Rock Legends preferite o per le vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends. Un ringraziamento va ad Andrea di Temponauts per la partecipazione, con l'augurio di ritorno nei nostri studi in futuro e magari la possibilità di vedervi in azione live dalle nostre parti. Magari questa volta in radio venite con il resto della band. Sicuramente farò il possibile. Niente, lasciaci i vostri contatti web ed email per info ed un calendario delle vostre prossime esibizioni live. Allora, contatti, il nostro MySpace, myspace.com/temponauts, e il nostro blog, che è quello più aggiornato, temponauts.blogspot.com. Appuntamenti live, abbiamo un piccolo live il 26 luglio in un locale dalle nostre parti a Borgonovo Valtidone, Piacenza, e ad ottobre saremo al Legend 54 per una festa organizzata da Milano Mod. Con cosa chiudiamo la puntata? Ma chiudiamo con The Down Booms. Da Gianluca e da Andrea dei Temponauts direi che è tutto, noi ci risentiamo venerdì prossimo, ciao! Ciao!